Cantine di Franciacorta. Un saluto dal Busco Franciacorta, parliamo della Cantina Ca' del Bosco e del suo creatore Maurizio Zanella, azienda da oltre 1 milione di bottiglie all'anno con agricoltura, bassissimo impatto ambientale e ricerca costante della qualità. Pioniere del Franciacorta, Maurizio Zanella piantò i primi filari nel 79, gli chiediamo il suo sguardo sul futuro. Per il momento non sappiamo e non conosciamo dove sia la frontiera, ci sono possibilità di sviluppo, io mi riferisco solo ed esclusivamente alla qualità del prodotto, enormi. Noi vediamo che ogni anno c'è un piccolo passo avanti al di là dell'andamento vendemmiale. In termini di terroir vale la stessa cosa, cioè più la vigna invecchia più abbiamo una qualità che aumenta, quindi non so dove si possa arrivare, di sicuro non ci sono più timori reverenziali verso nessun altro vino del mondo. È tutto, un saluto. Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.